750. Nocino. Il nocino è un liquore da farsi verso la metà di giugno, quando le noci non sono ancora giunte a maturazione. È grato di sapore ed esercita un'azione stomatica e tonica. Noci col mallo numero 30, spirito litri 1,5, zucchero in polvere grammi 750, cannella regina tritata grammi 2, chiodi di garofano interi 10 di numero, acqua decilitri 4, la corteccia di un limone di giardino a pezzetti. Tagliate le noci in 4 spicchi e mettetele in infusione con tutti i suddetti ingredienti in una damigiana o un fiasco della capacità di 4-5 litri. Chiudetelo bene e tenetelo per 40 giorni in luogo caldo, scuotendo a quando il vaso. Colatelo da un pannolino e poi, per averlo ben chiaro, passatelo per cotone o per carta, ma qualche giorno prima assaggiatelo, perché se vi paresse troppo spiritoso potete aggiungervi un bicchiere d'acqua.